Una volta conclusosi il ciclo di lotte che va dal 2014 al 2017, che poi è lo stesso che ha portato all'operazione Lynch, possiamo dire che sì, c'è stata, diciamo, una fase calante di quella che è la lotta contro le basi militari, ma non possiamo, diciamo, non tenere in considerazione tutta una serie di iniziative che sono state portate avanti in quegli anni, oltre alle quali poi ovviamente ha continuato ad esserci un grande lavoro da parte di tutta una serie di realtà e gruppi che si occupavano anche solo a livello informativo di come si stava evolvendo la questione delle basi in Sardegna. Per quanto riguarda le iniziative che sono state fatte, possiamo ricordarci innanzitutto di tutti i presidi che sono stati fatti al Tribunale di Cagliari, sia per quanto riguarda le richieste di sorveglianza speciale, sia per quanto riguarda poi in realtà le udienze per tutti gli imputati dell'operazione Lynch. Si è costituito anche un gruppo delle madri contro la repressione, che si vede davanti al tribunale ogni settimana per protestare appunto contro le accuse che i compagni e le compagne hanno ricevuto a causa appunto della lotta antimilitarista in Sardegna. Inoltre questi presidi, possiamo dire, anche l'ultimo è stato il 6 dicembre per la prima udienza del processo. Possiamo dire che sono sempre stati abbastanza partecipati, hanno sempre visto una base di solidarietà molto rassicurante, ecco, lì davanti ai tribunali. Poi oltre a questi sono state organizzate una serie di iniziative pubbliche. Quelle che vale la pena menzionare sono state particolare 4, che io suddividerei in 2 gruppi. 2 riguardano le basi militari attive, altre 2 riguardano invece le basi militari dismesse. Per quanto riguarda le basi militari attive, faccio riferimento a 2 cortei, entrambi al poligono di Teulada, uno dal lato della spiaggia di Porto Pino e l'altro dal lato della spiaggia di Porto Tramazzu. Sono stati 2 cortei organizzati da Foras, il primo a Porto Pino il 2 giugno. Si è trattato del primo, diciamo, corteo molto partecipato lì su quella spiaggia, recente ovviamente. Si è riusciti a superare, diciamo, quelli che sono i confini della base, ed è stato un momento, se vogliamo, di inizio, che ha dato a tutti un po' l'idea che si potesse in qualche modo tornare a manifestare fuori dalle basi e che ci fosse questa voglia anche fuori dai nostri gruppi, dai nostri circoli. Poi per quanto riguarda il corteo invece del 1° novembre, diciamo, questo corteo è stato un po' meno partecipato, però è stato anche lanciato con molto meno preavviso, però è stato un corteo che è estremamente efficace dal punto di vista del raggiungimento dei suoi obiettivi. Si è tornati a tagliare le reti, si è tornati ad invadere il poligono, ci sono stati dei momenti di tensione con le forze dell'ordine, che però non hanno scoraggiato i partecipanti al corteo, anzi c'è stata una bella risposta da tutti e tutte, e quindi, diciamo, quello è stato un momento secondo me molto importante per poi generare una forma di, cioè, l'entusiasmo che poi abbiamo visto il 19 dicembre. Le altre iniziative invece riguardano le basi militari dismesse. Secondo me sono iniziative interessanti dal punto di vista dello sguardo nuovo che danno all'occupazione militare, per cui non ci si occupa solo, che comunque è molto importante, però di quanto siano impattanti e dannose le basi militari. Le basi militari attive, che dentro le quali i militari ancora si esercitano, ma di quanto è poi devastante ciò che i militari lasciano sul territorio dopo che se ne vanno. Faccio riferimento a 2 iniziative organizzate da Sardegna Resti, una il 26 giugno al Colle di Sant'Elia a Cagliari, dove appunto c'è dove c'è in realtà sia una base militare attiva che una base militare dismessa, e l'altra è invece un'iniziativa sul Monte Limbara, nel Nord Sardegna, nella zona di Tempio. Per quanto riguarda quell'iniziativa, diciamo, è stata fatta comunque in una base che è molto conosciuta, perché è una base USAF che ormai è abbandonata da molti anni, però nella quale sono rimasti 6 giganteschi radar, parliamo di strutture di più di 30 metri, danno proprio un impatto visivo, sono molto conosciute sul territorio, e poi tutti gli altri stabili militari abbandonati. E anche lì, salendo ancora un po' più su sul monte, c'è un'altra base militare, quella attiva, e si tratta di una base meteorologica. Un'altra iniziativa che citerei è stata una passeggiata di Aforas alla Sella del Diavolo, sempre a Cagliari, che univa appunto questi due discorsi, perché sempre sulla Sella del Diavolo, che è limitrofa al Colle Santeria, si trovano appunto tutta una serie di depositi mezzi e basi militari attivi, cioè attivi attive, ma anche delle zone dismesse, che ormai hanno prodotto, diciamo, degli effetti devastanti sull'ambiente circostante. Sì, allora, come è stato detto in precedenza, sono numerose le iniziative che nel 2021 ci sono state rispetto alla questione militare, organizzate dai vari gruppi, dai vari collettivi in giro per la Sardegna. Però c'è da dire che l'attenzione sul tema si è mantenuta alta, anche perché sono stati diversi i fatti e gli episodi che hanno fatto parlare nell'opinione pubblica e hanno fatto scalpore, e questo ha permesso anche a chi ovviamente ha voglia di mettere i bastoni fra le ruote ai militari di cogliere l'occasione di alcune cose che sono successe per parlare del tema e anche per organizzare poi delle iniziative. Uno dei fatti che ha fatto più scalpore a livello mediatico è avvenuto a novembre, quando i generali militari che operano all'interno della base militare di Quirra, di Perdas de Vogu, sono stati assolti dal tribunale di Lanusei, assolti dall'accusa di aver omesso le norme e i rischi sulla sicurezza e sull'inquinamento all'interno della base, che, come qua in Sardegna è risaputo, la base di Quirra è una delle zone più inquinate dell'isola. Sono numerosissimi i decessi e i casi di leucemia, per esempio, oppure una cosa che è molto famosa è la foto della pecora nata con due teste, a causa, diciamo, dei materiali che venivano utilizzati nella sperimentazione dei razzi missilistici. Sempre Quirra poi è stata al centro è riapparsa sui giornali, perché è stato inaugurato un progetto che prevede la costruzione di un campo di sperimentazione per razzi missilistici, che è finanziato da Avio, che è un'azienda che lavora nel campo aerospaziale, è finanziato anche dalla regione Sardegna, che ha messo ben 800.000 euro in un progetto di 26 milioni di euro. Questo fattore è importante anche perché in questo progetto è direttamente coinvolta l'Università di Cagliari, con il Dipartimento Aerospaziale Sardo, che ritorna, per così dire, anche nell'operazione Lince, perché sono state svariate le iniziative organizzate tra il 2014 e il 2017, diciamo, che sottolineassero la complicità dell'università con l'esercito. Tra l'altro, a capo di questo Dipartimento Aerospaziale c'è Giacomo Cao, che oltre ad essere un noto militarista si è pure costituito, diciamo, come testimone nell'operazione, ovviamente dalla parte dell'accusa, per testimoniare contro i compagni e le compagne che nel tempo hanno provato a fare delle iniziative attorno all'università, diciamo. Per quanto riguarda invece gli altri poligoni, per esempio a Teulada c'è stato un fatto che ha fatto un po' di scandalo, perché praticamente la zona di Teulada ovviamente è interdetta a tutti i civili, e a giugno invece la Cala Zafferano, che è uno dei punti più belli all'interno della base, è stata concessa a Prada per girare uno spot pubblicitario. Una cosa simile poi è avvenuta pure a ottobre, quando addirittura i militari hanno deciso di bloccare le esercitazioni per 2 giorni per concedere il poligono ad un rally di SUV elettrici, in cui hanno partecipato anche nomi molto importanti, piloti famosi come Lewis Hamilton è praticamente stata una mossa, diciamo, per con la scusa che i SUV fossero elettrici, hanno spacciato questo rally come green in questa, diciamo, farsa di greenwashing abbastanza farsesca, perché anche lì, proprio in quei giorni, all'interno del poligono di Teulada c'era un'esercitazione militare grossissima dal nome Mare Aperto, in cui si sono esercitati più di 4.000 militari con mezzi pesanti, carri armati, lince. Quindi diciamo che non si sono fermati i militari in questi mesi del 2021. Anche qua vicino a Cagliari, con l'aeroporto militare di Decimo, l'aeroporto militare nel 2016 era utilizzato principalmente dall'aeronautica tedesca, dalla Luftwaffe, che però anche grazie alle mobilitazioni che ci sono state attorno all'aeroporto aveva deciso di abbandonare, e quindi diciamo che l'aeroporto del 2016 è caduto non in disgrazia, però comunque non veniva utilizzato per grosse esercitazioni. Però appunto quest'anno è stata annunciata l'apertura, che dovrebbe avvenire nel 2022, di una scuola di piloti, che appunto, quindi una scuola di formazione per piloti militari che appunto utilizzerebbero l'aeroporto di Decimo Mannu per esercitarsi. E ovviamente questo fatto avrà delle ricadute anche su Capofrasca, che è l'unico poligono in Sardegna che è specializzato, diciamo, nelle esercitazioni aeree. Quindi praticamente con questa nuova scuola di volo i piloti partiranno da Decimo Mannu e poi andranno a esercitarsi su Capofrasca. In generale diciamo che la questione militare è sempre calda, è sempre all'ordine del giorno, perché è molto semplice accorgersi della presenza militare, non solo per le basi che sono fisicamente imponenti che sono sempre lì, ma anche perché i militari non perdono occasione per uscire dalle basi, per esercitarsi anche fuori e per mostrare i muscoli. È capitato per esempio che si esercitassero sul monte Ortobene a fianco alla città di Nuoro, oppure che tra novembre e dicembre hanno fatto un'esercitazione che si chiama Bentuestu, dove appunto si sono esercitati in 4 posti in Sardegna fuori dalle basi, fingendo praticamente dei disastri ambientali in cui appunto dovevano intervenire per così dire mettere in moto tutto quel meccanismo di emergenza che avviene quando avvengono dei disastri tipo incendi, tipo alluvioni. L'operazione Lince è un'indagine che è stata portata avanti dal PM Guido Pani, iniziata nel settembre 2015 a seguito di un attacco fallito contro dei mezzi militari che si chiamavano Lince, da cui appunto l'operazione prende il nome, e fa riferimento ad un ciclo di lotte passato che va dal 2014 al 2017, in cui si è strutturata la pratica del taglio delle reti. Il taglio delle reti, più nello specifico, permette di interrompere l'attività militare se viene fatto durante le esercitazioni, ed è anche per questo che è diventato un atto simbolico di lotta contro le basi militari. Sono 45 gli indagati e le indagate dell'operazione, e dal numero di persone emerge come l'indagine non sia rivolta ad indebolire un determinato gruppo, ma bensì a criminalizzare una lotta e le pratiche che questa lotta porta avanti. Come ho detto, sono 45 le persone, 5 delle quali sono accusate di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, e 2 di queste sono considerate i capi dell'associazione. Questo è il teorema accusatorio con struttura piramidale che ha elaborato il PM, che emerge dalle carte nelle quali appunto il PM Pani sostiene che queste 5 persone pilotassero le altre all'utilizzo di pratiche come appunto quella del taglio delle reti. I fatti oggetto di indagine sono soprattutto cortei di fronte alle basi militari e altre iniziative pubbliche e non di sabotaggio che sono avvenute in quegli anni. Le prove a supporto delle accuse sono state raccolte tramite intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti e identificazioni durante cortei e iniziative. Il processo è tuttora in corso e si svolge in corte d'assise, e nell'udienza scorsa del 14 settembre 2021 sono state rinviate a giudizio 39 persone, perché alcuni reati sono caduti in prescrizione e rimane in piedi l'aggravante del terrorismo, che non è caduto ricaduta in sede preliminare. E alla chiusura delle indagini non c'è stato nessun arresto o nessuna misura cautelare e neanche nessuna perquisizione, come è solito quando si parla di 270 bis, ma c'è stata la richiesta di sorveglianza speciale formulata dallo stesso PM Guido Pani nei confronti dei 5 indagati per terrorismo. L'accusa si basa sulla presunta pericolosità sociale dei 5 e dopo 2 anni di attesa è stata rigettata dalla giudice Ornano quest'autunno. L'intenzione, insomma, era quella di dividere e di colpire il movimento, cercando di anche spaventare le persone che partecipavano alle giornate di lotta e ne condividevano le pratiche. A confermarlo è sicuramente la richiesta di sorveglianza speciale, ma anche il rinvio a giudizio con l'aggravante di terrorismo, che sta proprio a dimostrare l'intento repressivo di procura e magistratura. Ed è per questo motivo che l'assemblea di indagati e solidali si è riunita nella seconda metà di settembre per riprendere le lotte un po' dove si erano fermate e anche provare a riproporre un'iniziativa che avesse come obiettivo quello del taglio delle reti, una delle pratiche più criminalizzate dell'operazione Lynch. Il corteo è stato chiamato dall'Assemblea Indagati e Solidali, anche se a questo punto sarebbe più corretto dire imputati. È stato chiamato a Capofrasca perché è una base che si trova nell'Oristanese e da subito è prevalsa l'idea di che il corteo fosse inclusivo in tutti i modi possibili. Capofrasca si trova al centro della Sardegna, nell'Oristanese, e questo permette che possa essere raggiunta da un po' tutti i punti della Sardegna. In più è stato scelto di farla di domenica, che è un giorno in cui non ci sono esercitazioni militari, proprio per permettere la più ampia partecipazione possibile. Sicuramente non eravamo 1000, come generosamente dice qualche quotidiano locale, probabilmente eravamo la metà, in una composizione tosto militante. Questa magari può essere l'unica nota su cui ragionare per il futuro, anche se si veniva sicuramente da anni un po' sonnecchianti. La partecipazione, la qualità della partecipazione lasciano ottime sensazioni per il futuro. Si è stati molto espliciti nella chiamata, nei manifesti, su quello che si voleva fare. L'obiettivo dichiarato era quello di invadere il poligono, tagliare le reti. Così sicuramente è stato. Si è fatto tutto il necessario perché la giornata fosse coerente con quella che era la chiamata. Ci siamo trovati in una piazza, nella piazza principale della frazione di Sant'Antonio di Sant'Adi, in prossimità del poligono. Il poligono non è uno dei più grandi, è un poligono di esercitazioni aria terra e mare terra. È grande, è vasto, 14 km quadrati. Non immaginate come si potrebbe immaginare quando non si è mai vista una base, un gigantesco casermone, una base militare. Una zona recintata di territorio con delle strutture al suo interno, ma con aree intere sottratte alla collettività, in questo caso di boschi e macchia mediterranea e mare, scogliera. C'è stato un brevissimo corteo che ha cercato di ricongiungersi a un presidio che era lì dalla mattina presto, ma un cordone della Celere si è piazzato tra il presidio sul ponte davanti all'ingresso principale della base e il corteo. Si è tentata un po' di attesa, un po' di pazienza, non si è cercato subito lo scontro perché si sapeva che sarebbe stata una giornata lunga, e così è stato, e sapevamo quello che volevamo. Così, dopo circa una mezz'oretta di attesa e di avanzate pian pianino, si è deciso di rinunciare all'idea iniziale, fare retrofront, non cercare lo scontro con la polizia, che per la giornata aveva un dispiegamento di forze notevole per quello a cui siamo abituati qui in Sardegna. Probabilmente c'erano almeno 9 camionette, c'era un idrante che era inedito nei cortei antimilitaristi, l'immancabile elicottero. Quando così abbiamo deciso di tornare indietro, andare verso il mare, nella zona di Pistis. Probabilmente le forze dell'ordine sono rimaste un po' spiazzate perché ci hanno messo parecchio tempo a decidere cosa fare. A un certo punto abbiamo deviato in un sentiero sterrato, cui non pensavamo più da numerosi sopralluoghi da qualche mese, che era stato escluso inizialmente per le copiose pozzanghere fangose che si creano d'inverno, ma abbiamo alla fine deciso di imboccarlo. Si è arrivati tutti insieme davanti alle reti come si pensava che fosse giusto fare. Sono state tagliate varie decine di metri di rete. Almeno un terzo del corteo ha invaso il poligono, mettendo addirittura in fuga i pochi militari presenti davanti alle reti. Dopo un bel po' di tempo si è presentata la celere, è stata fatta retrocedere con una sassaiola abbastanza fitta. Ovviamente è iniziato il consueto lancio di lacrimogeni, si è rimasti dentro la base per una ventina di minuti, forse una mezz'ora, senza che nessuno venisse preso. Si è iniziato a retrocedere lentamente con l'avanzare della polizia. Ci si è ricongiunti allo striscione rinforzato e si è retrocessi a gambero fino all'ingresso del paese, senza forzare uno scontro con la polizia, perché per noi era essenziale non tradire la chiamata. E l'obiettivo della giornata era quello di tagliare le reti, invadere il poligono, dimostrare che è possibile, dimostrare che farlo in tanti e dimostrare che se si è onesti e chiari nelle intenzioni, tutti trovano il modo di partecipare e di stare dentro. Tanti modi, un'unica lotta, l'abbiamo detto tante volte, lo diciamo anche questa. Sicuramente la giornata non poteva andare meglio di così. Abbiamo fatto vedere che è ancora possibile. Le forze dell'ordine non sono così sveglie come noi ci aspettiamo che siano. Se volgiamo lo sguardo al futuro, sicuramente questo corteo ci fa ben sperare. Bisogna cercare di mettere a frutto l'eccitazione e la tensione che si è vista anche nelle facce nuove, nelle facce più giovani. Per molti probabilmente questo era il primo corteo di questo tipo e di questo tenore. La generosità è stata veramente larga e condivisa in tutti i momenti del corteo. Si può dire che le maglie sembrano abbastanza nutrite per il futuro. L'auspicio è che possa nascere una nuova stagione antimilitarista, ancora più forte ed efficace della precedente, e che questa voglia e questa tensione possa essere messa a frutto per tutte le forme di sfruttamento che la Sardegna vive e che opprimono questa terra. Sia al corteo che alla sua organizzazione hanno partecipato diversi compagni e compagne di Sardegna Resti, che è una nuova assemblea nata dall'esigenza di vedersi per parlare di una serie di questioni emergenziali sul territorio dopo che c'è stata l'alluvione di Bitti a dicembre del 2020. Alcuni compagni e compagne sono saliti a portare solidarietà alle persone colpite dall'alluvione, e da lì abbiamo deciso di vederci e incontrarci per iniziare a riflettere su quelle che sono sia le situazioni di emergenza che si creano spesso in Sardegna, tra appunto alluvioni, incendi e dissesti idrogeologici, sia per parlare delle varie forme di sfruttamento che il territorio sardo subisce. Da questi incontri è nata appunto Sardegna Resti, che in sardo significa Sardegna ostile o selvaggia. La parola Resti ha questo doppio significato. E da lì abbiamo, diciamo, iniziato a portare avanti delle azioni e delle iniziative che mettessero in luce tutte le forme di sfruttamento che la Sardegna subisce, che vanno dall'occupazione militare all'occupazione del territorio per enormi impianti per produrre la cosiddetta green energy, lo sfruttamento dovuto al turismo sia di lusso che di massa, è l'utilizzo di vaste zone del territorio come discariche di rifiuti industriali, per non parlare poi, insomma, di tutte le altre industrie già presenti sul territorio. Diciamo che nel corso del tempo quella che noi abbiamo individuato come la matrice di tutte queste forme di sfruttamento è il colonialismo. Questo perché secondo noi ci troviamo davanti a dei veri e propri atti di prepotenza da parte dello Stato, che decide di devastare un territorio che adesso è periferico, imponendo poi anche delle monoculture economiche molto invasive e che non lasciano poi nessuna possibilità di autodeterminazione agli abitanti di quel territorio. E per questo infatti noi pensiamo che Una delle prospettive più interessanti con cui Sardegna Resti può partecipare alle varie lotte specifiche che prendono forma sul territorio, tra cui sicuramente in questo momento la più rilevante è quella alle basi militari, ma non solo. Ci sono stati appunto, ci sono diversi comitati che sono nati per difendere per esempio le coste dalla cementificazione o per difendere certi territori dalla svendita totale, perché venissero impiantati enormi distese di pale eoliche. Noi pensiamo che diciamo la chiave di lettura migliore che possiamo avere in questo momento è quella anticolonialista, anche perché questo ci permette di unire tante piccole lotte specifiche sotto una lotta organica più ampia. E quindi questa è anche questo è anche diciamo questo è stato lo sguardo che Sardegna Resti ha avuto sulla lotta alle basi militari e il modo in cui abbiamo deciso di partecipare al corteo del 19 dicembre a Capofrasca. Come ha anticipato prima la compagna, sono diversi i tipi di sfruttamento che ci viviamo qui nell'isola. Molti di questi hanno, secondo noi, un'origine, una matrice di tipo coloniale. La questione militare rimane indubbiamente centrale, perché effettivamente l'esercito occupa una grossa porzione di territorio sardo che è recintato e che viene sottratto alle comunità locali, ma anche perché la Sardegna riveste una importanza strategica nell'ambito dello Stato italiano in materia bellica, diciamo. Essendo il 60% del demanio militare qui nell'isola, potete capire bene che appunto l'importanza che ha la Sardegna non è solo dal punto di vista dell'utilizzo del territorio, ma anche proprio della strategia militare, nel senso che qui i militari fanno il loro mestiere, cioè quello di preparare la guerra, è qui che vengono provate le nuove armi, è qui che vengono testate le nuove tecnologie militari, e questo non è un aspetto tralasciabile. A fianco a questo, in questo momento, secondo me, in Sardegna sono altre due le questioni per così dire centrali. Una che sta, diciamo, è molto più recente e che sta vivendo attualmente una fase cruciale, e cioè quella legata alla transizione ecologica alle fonti di energia rinnovabile, e l'altra è invece quella legata al turismo, che va avanti da decenni ma che nel tempo ha trovato il modo di cambiare, di mutare forma e di adattarsi anche alle logiche del capitalismo. Transizione ecologica: per capire ciò che sta avvenendo in Sardegna bisogna andare a sbirciare in quelle che sono le linee guida che lo Stato si è dato per affrontare la fase attuale, quindi andare a rileggere il PNRR, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato perfezionato dai tecnici del governo recentemente, in cui c'è tutta una parte dedicata appunto alla questione della transizione ecologica e delle energie rinnovabili, per cui lo Stato ha deciso di stanziare ben 60 miliardi di euro. Le zone interessate da questi investimenti sono il meridione italiano e le due isole, la Sicilia e la Sardegna, che essendo zone altamente esposte al vento e al sole, anche zone in cui i terreni sono spesso abbandonati all'incuria e quindi facilmente acquistabili, appunto sono state individuate queste come zone strategiche. Per quanto riguarda la Sardegna, le fasi che riguardano la questione energetica sono due: una legata alla produzione energetica vera e propria, quindi all'installazione di pale eoliche e campi fotovoltaici. Sono numerosissimi i progetti che sono stati presentati e che sono in fase di accettazione. C'è da dire che con il decreto semplificazioni lo Stato si è semplificato appunto la vita, perché permette di dribblare, per così dire, le procedure di valutazione di impatto ambientale e quindi di rendere l'installazione di queste strutture molto più semplice. Infatti, appunto, sappiamo di dover stare attenti, di dover stare con gli occhi aperti e le orecchie dritte per captare ogni tipo di lavoro che potrebbe iniziare anche a breve. La seconda questione invece è legata al trasporto dell'energia. Questa è una questione cruciale per noi, perché la Sardegna produce già più dell'energia che consuma. Questa energia qua adesso ci viene chiesto di produrre ancora più energia, e ci viene anche spiegato perché l'energia deve essere trasportata in continente, quindi nella terraferma. Questo trasporto appunto dovrebbe passare per due cavi, uno che dovrà essere migliorato, un cavo già esistente che dovrà essere migliorato, che è nel Nord Sardegna, si chiama il Sacco I3, e poi c'è un altro progetto che si chiama il Tyrrhenian Link, che prevede un cavo fatto da Terna, che è una delle aziende più grosse per quanto riguarda l'energia, che vorrebbe costruire un cavo che vada dalla Sardegna fino alla Sicilia, e poi dalla Sicilia porterà l'energia nel nord Italia, e poi da qui verrà smistata chissà come. Questa questione è cruciale per noi, perché rappresenta appunto ciò che noi definiamo una questione coloniale, cioè la terra in cui viviamo deve essere riempita di pale, di campi. Perché? Perché l'energia serve nelle zone produttive del mondo. Qui questa energia non ci serve, e quindi il nostro discorso è: che cosa ce ne facciamo di questi campi? Non li vogliamo. Ovviamente per noi la questione non è semplicemente che non vogliamo queste cose nel nostro giardino, c'è pure una riflessione etica attorno alla questione, perché questa che spacciano come transizione ecologica è in realtà una farsa, nel senso che è l'ennesimo modo che ha il capitalismo di spendere, di investire per ingrassare i portafogli di queste grosse ditte che sono Enel, che sono Terna, ma così come tante altre. Però effettivamente non ci sarà una riduzione dell'inquinamento, il modo di produzione rimarrà quello industriale. Il capitalismo diciamo sta cercando di ripulirsi la coscienza tingendolo di green, come dicono loro, ma effettivamente non cambierà nulla. Ovviamente queste sono solo due questioni più centrali, ma sarebbero tante le cose di cui parlare. C'è tutta la questione della produzione di acqua. La Sardegna non ha tanta acqua. D'estate è uno dei posti in cui avvengono più incendi nello Stato italiano. Eppure durante i mesi estivi la richiesta di acqua è ovviamente altissima. Per esempio c'è tutta la questione legata ai campi da golf, che consumano, un campo da golf consuma più o meno come un paese di 14.000 persone. E poi c'è tutta la questione, per esempio, legata alla pesca e al saccheggio del mare, che nei mesi estivi ha un suo picco. Tutte questioni molto importanti, insieme a tante altre che sarebbero da citare, ma che poi portano alla domanda che per noi è centrale, e cioè: a noi cosa rimane di tutto questo sfruttamento? Un esempio di ciò è legato al tasso di consumo di suolo in relazione alla popolazione effettiva che vive in Sardegna, che è altissimo, nel senso che la maggior parte delle costruzioni che ci sono in Sardegna sono destinate ad un utilizzo turistico, e d'inverno sono completamente abbandonate, completamente vuote. Se ci si fa un giro in alcune superstrade della Sardegna durante l'inverno non c'è una macchina, eppure sono strade enormi che sono state costruite buccando le montagne e appunto per condurre i vacanzieri in questi luoghi di intrattenimento. Ci sono poi dei luoghi lungo le coste che hanno un tasso di cementificazione allucinante, con veri e propri scempi, alberghi costruiti a 3 metri dalla battigia, o campi da golf costruiti a ridosso degli scogli. Quindi diciamo la questione della devastazione ambientale è per noi centrale, e ovviamente in questo periodo fare un discorso sull'ambiente ha un valore importante, perché la questione ambientale è ritornata ad essere al centro delle discussioni internazionali, anche grazie a svariate mobilitazioni giovanili, anche perché effettivamente ci si sta rendendo conto che il pianeta sta soccombendo sotto gli attacchi del capitalismo. Inoltre c'è tutta la questione legata al lavoro stagionale e all'estrazione di risorse vive, umane, nel senso che moltissimi dei giovani sardi fanno lavori stagionali, lavorano solo durante l'estate per stipendi spesso da fame e campano poi durante tutto l'anno con la disoccupazione, la NASPI. Il discorso è molto semplice. A guadagnare dal turismo sono pochi, sono gli imprenditori. Spesso questi imprenditori non sono neanche sardi, ma spesso sono sardi, e questo per noi è indifferente. E ciò che rimane è che la gente dell'isola non è che ci guadagna tanto da questo turismo che spacciano come l'industria buona, l'industria che tutti si auspicano di riprodurre. Ciò che rimane alla gente delle comunità di costa sono briciole, e questo è dimostrato anche dai tassi di spopolamento che ci sono. Ci sono diversi paesi che sono al centro di zone interessate dal turismo che si stanno spopolando.